Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Ballarò è ancora italiano o l'hanno comprato i rumeni? It's now or never. Come home in time. Dunque, Star, Carapelli, Bertolli, il riso Scotti se li sono comprati gli spagnoli. E metti via. La gancia, lo dice il nome, guancia, è stata comprata da un russo. Spumante guancia. Beh, era naturale. Valentino ormai è di un emiro del Qatar. Sai, sono tutti neri. Bulgari, Fendi, Gucci, Loro Piana, se li sono comprati i francesi. Sava Sandir, è la moda. Parmalat, Galbani, Locatelli, Invernizzi, anche loro i francesi. Tu mi direi, ma la moda e i formaggi diamoli ai francesi. Caprice de Dieu sur les Dragons, c'est parfait. Sempre i francesi con gli olandesi si compreranno fra poco all'Italia. L'Inter va agli indonesiani e oggi ho letto che gli spagnoli si comprano Telecom. Giova, e in Italia chi c'è rimasto? Balotelli? It's not never. Buongiorno, buongiorno da Mix 24. Dunque, l'Italia è in vendita, potremmo andare avanti per molto tempo, per più di mezz'ora, per raccontare per i nomi delle società che sono state vendute e altrettante per, purtroppo non ne sono nate dello stesso livello. Però c'è chi tiene duro, un simbolo per tutti è la Ferrero, che ha smentito sdegnosamente la cessione dell'azienda alla Nestlé Industria. Un numero, lo ricordo per chiamarci, discutere con noi, 800 24 00 24. Invece per gli sms 349 238 6666. Insomma, l'Italia è in svendita. Mario, il nostro Made in Italy, che lingua parla? Parla ormai cinese? Mario, senti, ovviamente per gli ascoltatori. Buongiorno. Sì, nel senso che dovrebbe parlare cinese se fosse orientato seriamente all'export. Ancora non lo è. Guarda che comunque, sì, è vero, c'è il paese in vendita, però se osserviamo attentamente, la quota di investimenti esteri in Italia è molto bassa. In realtà che cosa hanno comprato? Il meglio. Certo, e questa è la cosa interessante. Ecco, ma sono vendite gravi oppure un effetto naturale della globalizzazione? Un po' è effetto della globalizzazione, e un po' però ci sono delle scelte sciagurate che magari poi ne parleremo. Una su tutte clamorosa è la situazione di Alitalia in questo momento, perché certo, è sotto i riflettori, ma certo, ce ne sono tante altre. Ecco, Pietrangelo Buttafuoco, la fantasia al potere, che è stato uno slogan non solo del 68 ma anche del Made in Italy, è passato di moda? È passato di moda perché oltre all'effetto della globalizzazione c'è anche una decisione della politica di svendere l'Italia. C'è una decisione di un ceto politico che ha ripudiato se stesso, ha rinnegato quella che è la specificità italiana e ha venduto letteralmente, assieme a quelli che sono i marchi, i prodotti, la fantasia, la creatività italiana, ha svenduto anche la natura stessa di questa comunità, facendo sì che si trasformino in consumatori e neppure più inventori, neppure più creatori. Creatori, venditori e basta. Ecco, ricordo il nostro consumatori e basta. Il nostro numero è 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Professor Guarino, professore emerito del diritto amministrativo dell'Università La Sapienza. Ecco, ma questa creatività italiana che ha fatto diventare l'Italia il quarto paese più industrializzato del mondo, dove è finita? Non è che è finita la creatività, perché la creatività si inserisce in un organismo il quale funziona in un certo modo e che consente alla creatività di produrre i suoi risultati. Ecco, ma con la globalizzazione era una conseguenza inevitabile in qualche modo? Non in assoluto, per noi probabilmente sì, perché il nostro organismo, quale si era creato dal 1950 e ha funzionato benissimo fino al 1980, era basato su principi diversi da quelli della globalizzazione. Quindi quello è stato il problema. Era una conseguenza ineluttabile. Ecco, lei... Se lei mi consente, prego. Il calice era molto battuto o per trasformare le strutture interne oppure per ritardare che gli altri si rendessero conto delle nostre differenze. cosa che non è capitata. Ecco, lei nel suo ultimo saggio, Verità sull'Europa e sull'Euro, dice che sono le grandi emergenze storiche a creare i grandi personaggi. Ecco, però mi sembra che siamo in un momento di grande emergenza. I grandi personaggi politici, non i grandi personaggi tecnici. Ecco, ma anche politici. Non si vede da un giorno all'altro. Ecco, ma i grandi personaggi politici in questo momento che c'è una grande emergenza non si vedono all'orizzonte. Ma lo spiego in questo modo, perché noi ci siamo inseriti volontariamente non più in un organismo, ma in un'organizzazione, c'è da dire, in una specie di gabbia. E ognuno operando, facendo i compiti a casa, come è stato detto una volta dal nostro Presidente del Consiglio, non facciamo come non solo noi, ma anche gli organismi europei, i dirigenti europei, non facciamo che restringere la gabbia, non se ne esce più. Ecco, quindi, e quindi non c'è possibilità di far crescere dei politici, dei grandi politici, questo un po' dice lei. No, si potrebbe ancora, anzi il momento è ideale, perché si trovi in mezzo per schiodare la gabbia. Ecco, senta professore, poi parliamo del coraggio, però poi parliamo del coraggio e della necessità di schiodare la gabbia. Però per tornare al problema dell'Italia in vendita, ascolti questi spot. Montana, 100% carne da allevamenti italiani. Nastro azzurro, c'è più gusto essere italiani. La moda è la nostra bandiera. Abbiamo un'idea tutta nostra dell'economia di mercato. Copiarci non è difficile, è inutile. ProRaso, il barbiere degli italiani. Frutta fresca dal frutta, sicura, italiana, sempre buona. E adesso chi mi aiuta? Su, coraggio, riuscirai nelle tue imprese con la crema bel paese. Galvani. Invernitina, doppia panna, piace a tutti. Dove c'è sentimento c'è amore. E dovunque c'è amore c'è un bacio. Perugina. Col doppio brodo Star, tutto migliora in cucina. E mo? E mo, e mo. Mo plen. E mo, e mo, e mo, e mo. E mo, e mo, e mo. Mo plen. È leggero. Resistente. Inconfondibile. Inconfondibile, leggero, resistente. Ma signora, guardi ben che sia fatta di mo plen. E mo, e mo, e mo, e mo. E mo, e mo, e mo. È una materia plastica Monte Sud Petrochimica. Ecco professore, sembra solo uno spot, ma dietro questo spot c'era un genio, c'era Giulio Natta, premio Nobel per la chimica nel 63, e con Moplen l'Italia ha invaso il mondo. Ecco, oltre ai grandi politici, mancano anche i Natta? Per Marco, l'ho conosciuto, ma ha trasformato anche il mondo, non solo l'Italia. La plastica è una componente fondamentale della produzione chimica, anzi ormai è dominante. Ed eravamo leader mondiali, ma è sparito tutto, la chimica è finita in Italia. E la chimica forse non poteva svilupparsi, è stato un errore quello di pensare di lanciare la chimica senza avere più un ufficio studi come quello che era stato diretto da Natta. Ah, quindi la chimica è morta di morte naturale, dice lei. Non è morte naturale, è una morte purtroppo preparata da decisioni, da provvedimenti non tutti sapienti. Senta professore, nel suo saggio Verità sull'Europa e sull'Euro, che citavo prima, lei dice che l'Europa non ha una guida politica, l'ha già detto anche prima, e questo è il problema, cioè questa gabbia è una gabbia fatta di cosa? Ecco, qui ho bisogno che le spieghi in due parole. Mi spieghi pure con calma. In due parole, perché questo fa capire moltissimo di quello che sta accadendo oggi in Italia, perché per ogni istituzione ha bisogno di un potere politico. Certo. Quando parliamo di mercato, altro è il mercato con potere politico, altro è il mercato senza potere politico. Altro è il mercato in cui tutti i comportamenti sono irrigiditi. Quindi noi oggi non possiamo fare altro perché siamo messi in una gabbia che ormai è diretta da certi principi che portano necessariamente alla limitazione della crescita. Ma quando lei dice gabbia intende l'Europa? Questa Europa dei burocrati? Questa Europa dei burocrati? Perché no, vede, la differenza è che il sistema originario, quello che è stato creato, messo a punto da Carli, da Kohl e da Delors, era un sistema che era funzionalizzato alla crescita. Non basta dire voglio la crescita, bisogna offrire gli strumenti per la crescita. Questi strumenti per la crescita erano due: la politica economica di ciascuno Stato, che lo Stato avrebbe esercitato nella sua sovranità, e che riguardava non soltanto la moneta, ma anche tutta l'area dell'attività politica, e nello stesso tempo uno strumento per realizzare la crescita nell'ambito della politica economica. Ecco, ma questa Europa qui ha attrazione tedesca, invece è diventata un'ancella degli interessi tedeschi, e basta. Non direi degli interessi tedeschi, è avvenuto qualcosa di assolutamente folle, è incredibile, per e cioè? Ancora non ci credono. E cioè? È la disciplina che con tanta cura, con tanta attenzione, con tanto impegno, dice Carli, era stata la disciplina nel trattato, hanno sostituito una disciplina assurda. Quale assurda? L'applicazione del principio della parità del bilancio. Parità del bilancio da conseguirsi non solo a medio termine, ma attraverso un programma prestabilito. Ha due poteri, due grandi poteri, la politica economica dello Stato e l'indebitamento come strumento specifico, perché si aggiungeva a tutti gli altri per realizzare la crescita, hanno sostituito due doveri. Il dovere è una cosa e il potere è un'altra. Cioè, quali doveri? Il dovere di ubbidire a queste regole? Di ubbidire a queste regole specifiche per realizzare nel medio termine il pareggio di bilancio. Ecco, ma non è facile dare tutta la colpa all'euro e all'Europa adesso? No, non all'euro. All'euro falso. Ah. Perché quello è elaborato da, ripeto, da Kohl, che è il grande direttore, sì, certo, è governatore della banca tedesca, di Dall'Euro e da Karl, che ha avuto un'importanza enorme. Importantissima, sì. Hanno sostituito una cosa diversa. Senta, quindi veramente bisogna pensare ad esaminare come questo sia potuto avvenire. Cioè, bisogna ritornare al primato della politica, questo è. Il primato della politica in quel momento è la politica. No, non in questo momento, adesso bisogna, per riprendersi, per uscire da questa gabbia, cosa bisogna fare? Per uscire da questa gabbia bisogna utilizzare l'unico potere residuo che secondo me è rimasto. Quale? Quello di passare dalla zona euro, soggetta a queste regole, all'Unione, restando dall'Unione Europea, con la libertà di autonomia politica e monetaria. Ma questo in concreto cosa significa? Questo significa che se i quattro stati, l'Italia con altri tre, si mettono insieme, possono realizzare un'unità politica con una propria autonoma moneta e collocarsi al 11° posto nel mondo per popolazione, al 10° posto nel mondo per popolazione e al 4° per economia. Quindi lei dice un'Europa a due velocità sostanzialmente? No, perché ognuno fa. Siamo ma quali sono i quattro paesi di cui parla? Aspetta, perché c'è l'altra variante. Se entra anche la Francia, è la seconda nella ricchezza, nell'ampiezza del mercato. Senta, professore, però noi non abbiamo solo venduto le aziende, come abbiamo detto, abbiamo anche privatizzato. Tutto è cominciato con le privatizzazioni che per molti erano indispensabili. Senta cosa diceva Prodi nel 95, lui che le ha promosse. Senta, io ho fatto le privatizzazioni, la unico, comunque, ne sono orgoglioso. Armani, suo vicepresidente all'IRI all'epoca, però dice che le sue non sono state privatizzazioni, ma svendite. Lei cosa risponde? Ma perché Armani approvava tutto squittendo? Non c'era nessun bisogno di squittire. Cioè, quindi queste cose Armani prima non gliele diceva, le dice solo adesso? Oh, non solo, se lei prende i verbali dell'IRI, dice Armani approva con entusiasmo. Lei ha privatizzato anche il Credito Italiano, venduto, se non ricordo male, per 1.400 miliardi. Lo considera un affare? Sì. Ecco, professore. Vedi, chi fa un errore e poi sopporta tutte le conseguenze. L'errore non si riferisce soltanto a Prodi, ma alla collettività italiana nel 1991. Cioè il governo? Nel 1991, certo, quando abbiamo fatto l'Unione Europea, l'Italia aveva un complesso industriale e produttivo assolutamente importante e poi aveva un sistema di medie e piccole imprese che erano dominanti nel mondo. Ecco, ma e le privatizzazioni sono state un elemento negativo, secondo lei? Non è così semplice. Se i nostri gruppi industriali fossero stati organizzati per raggiungere dimensioni di livello mondiale, perché quello che nessuno non si voleva tener conto è che il trattato per l'Unione Europea, nello stesso momento in cui creava o riteneva di creare il mercato unico, cosa che non è stato creato, e la moneta unica che non è stata creata, però ha aperto l'economia del mondo. E aperto l'economia del mondo, c'era un articolo specifico in cui l'Europa perdeva l'iniziativa per la riduzione dei tassi, cosa che è avvenuto poco dopo. Ecco, ma professore, scusi, per tornare alle privatizzazioni, Me ne può dire una giusta e una sbagliata? Sono tutte sbagliate, no, quelle che abbiamo fatto? No, perché lo Stato poteva privatizzare, sì, ma aveva una massa di liquidità nelle famiglie che era pari a 1,20 del debito pubblico. E quindi? Quindi è la popolazione più semplice di realizzare, creando delle entità di livello mondiale e darlo alle famiglie italiane. Cioè, ah, quindi lei dice praticamente delle public company invece che venderle a qualcosa del genere, di insomma. Mondiali. Sì. Invece che cosa è accaduto? Che ognuno ha voluto il suo pezzettino. E le imprese italiane hanno creduto di arricchirsi comprando a poco prezzo imprese dello Stato. E avendo comprato a poco prezzo le imprese dello Stato, hanno accumulato i loro debiti quelli che venivano ad acquistare. Certo, e quindi hanno impoverito le aziende che hanno comprato poi. Abbiamo venduto in condizioni disastrose. Certo. E abbiamo ottenuto che i compratori, insieme con quanto avevano comprato, non siano stati in grado di andare avanti. E quindi, professore, in sostanza lei dice che il duopolio di oggi USA-Cina... In questo duopolio manca questa Europa 4 di cui parla lei? Ah, certamente, se fosse addirittura totale sarebbe forse il più grande del mondo per l'economia. Cioè l'Europa totale sarebbe l'Europa molto totale, meglio. Ma se la Germania non aderisse, noi siamo comunque l'anello indispensabile per l'equilibrio del mondo. Mm. Oggi, scusi se le faccio una piccola aggiunta, nel mondo oggi dominano i mercati finanziari, come si dice. Certo. Cioè, le grandi istituzioni finanziarie. E le grandi istituzioni finanziarie però devono avere un contrappeso politico. Che non c'è. Se non c'è il contrappeso politico a livello globale, certo, allora il mondo non sappiamo come potrà andare a finire. Quindi a quel punto non siamo più innovatori di civiltà. È vero, non abbiamo più la possibilità di svolgere il nostro compito. Grazie professore, ricordo il nostro numero 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Mario, ma messa come l'ha messa il professore sembra quasi che non ci sia via d'uscita. Beh, però è impressionante quello che dice Guarino, anche perché parla un uomo non solo di grande scienza, ma anche di grande esperienza, cioè le ha viste tutte, diciamo, no? Queste fasi di costruzione dell'Europa. Quello che un po' mi lascia perplesso, non del discorso di Guarino, ma diciamo del clima generale sull'Europa, è il discorso sulla irreversibilità della situazione. Perché è irreversibile? Cioè è caduto l'impero romano, sì. Cioè, voglio dire, non certo. C'è niente di irreversibile. Cioè si può cambiare questo paradigma. L'ideale, come dice Guarino, sarebbe migliorarlo davvero, migliorarlo, con un primato, esatto, della perché, politica. Perché attenzione, Guarino non dice che l'Europa è da buttare. Guarino dice l'Europa così com'è non funziona e ne abbiamo prova anche tutti i giorni. Forse Matteo, va cambiata. Matteo da Milano. Matteo, sì, buongiorno. Buongiorno. A tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziare finalmente che si iniziano a vedere queste facce, queste voci che io da tre, io sono un nulla. Le facce non si vedono tanto, ma insomma le voci. le voci di gente come Savona, come Guarino, come Bagnai, come Borghi, che da 2 o 3 anni che parlano di queste inettitudini dell'Europa e dell'euro. L'Europa è stata creata per non avere più un'egemonia tedesca, noi facciamo il discorso della banca centrale europea indipendente, sta mantra delle banche centrali indipendenti, nell'indipendenza è ovvio che il paese più forte ci si mette di traverso e facendo i suoi interessi, questa è la Germania. E la domanda? La domanda io volevo dire semplicemente che una volta che la Germania e comunque gli altri paesi non cercano di... Vabbè, insomma, non le piace l'Europa a guida tedesca, diciamo, per semplificare. Quello che dico è che la Germania, con la sua potenza politica, che noi non abbiamo, economica, sta cercando di fare una calabrizzazione dell'Italia. E questo sotto questo progetto. Calabrizzazione non è male. Calabrizzazione non è male. Lei di dov'è? Lei di dov'è? Io sono di Milano. L'ha sentita 2 o 3 settimane fa l'intervista di Monti che ha la CNN, che va in giro per l'America dicendo, fiero di quello che ha fatto, con fierezza dicendo io ho ucciso la domanda interna, io ho abbassato i salari, ora che c'è i saldi, che ci sono i saldi, venite, vi prego, venite a comprare. Vabbè. Insomma, Italia svendita è quello di cui parliamo, la ringrazio. Sentiamo Sabino di Bari. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vorrei fornire due piccoli contributi tecnici per cercare di dare un'informazione più corretta agli ascoltatori. Dica. Ho apprezzato l'intervento del comico, però c'è un sottile velo di doppiopesismo, perché vorrei capire come mai quando Luxottica, Unicredit o Enel fanno shopping all'estero nessuno batte ciglio. Ha ragione. Giusto. E, ha ragione. Infatti, poi vorrei fare osservare un'altra cosa, che imprese italiane in realtà sono meno italiane di quanto lo si pensi. Faccio tre nomi: Ferrero, De'Longhi e Campari sono di proprietà di holding lussemburghesi, quindi sono italiane fino a un certo punto. Beh, vabbè, insomma, così insomma, diciamo che mi sembra che più italiano della Ferrero non si possa dire. La ringrazio Sabino. Ecco, abbiamo la pubblicità. Dopo la pubblicità, naturalmente, scopriremo che cosa bolle nella pentola dell'attualità in Italia, nel mondo. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Pubblicità. Mix 24. Hello boy. Levati la blusetta. La blusetta no. Levati la blusetta. La blusetta no. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella. Pietrangelo, Pietrangelo, questa canzone oggi, come mai questa canzone? Fa d'uopo, direbbe Totò, cade a fagiolo, perché stiamo raccontando le disavventure della nostra Italia, che si offre agli astanti nel consesso europeo. È una volta la blusetta, poi la camisella, poi qualcos'altro, insomma la deve pur togliere fino ad arrivare all'elemento fondamentale. E levati le mutande! Siamo arrivati fino lì proprio. La situazione è questa. Nudi alla meta, Mario. Ma noi non lo so, di certo Hollande non so se dovrà levarsi le mutande come invocava Totò, ma è come messo fece Morandi per alzare l'audience. Sì, per alzare l'audience. Lui è il problema dei sondaggi. L'ultimo sondaggio è diventato praticamente una specie di cimitero, perché è il presidente più impopolare della storia francese. Accidenti. Per la prima volta un presidente scende sotto il 30%. Perché? Ecco. Effetto della crisi, l'Europa, e forse il malcontento, anche un'incapacità di leadership. Beh, scelte politiche sbagliate. A proposito di incapacità o incapacità di leadership, noi abbiamo Gianni Gennari, che sta per andare a una conferenza stampa molto importante in Vaticano. Gianni, mi senti? Ecco, buongiorno. Buongiorno. Mi dici rapidamente che cosa, perché è importante questa conferenza stampa che ci sarà alle 11 in Vaticano? Alle 11:30 in Vaticano ci sarà una presentazione del futuro sinodo straordinario dei vescovi, che sarà tra un anno, dal 5 al 19 ottobre. E all'interno della presentazione si parlerà tranquillamente di un questionario che è stato distribuito a tutti i vescovi del mondo, ma da destinare alle parrocchie e ai fedeli. Sono 9 capitoletti con 38 domande su tutto ciò che riguarda il matrimonio, la sessualità e la famiglia. Quindi il Papa vuole sapere cosa pensano i fedeli, non decidere lui da solo. La cosa estremamente significativa è che in concilio Paolo VI proibì ai vescovi di continuare a discutere di questi argomenti avvocando a sé il problema. Poi è venuta fuori l'umane vite, poi tutto il resto eccetera. Ora, questo Papa non solo dice ai vescovi di parlarne nel sinodo dei vescovi, ma vuole che consultino i fedeli. È veramente qualcosa di rivoluzionario. No, non è una cosa del tutto inedita. Nel codice giustinianeo, roba di 1500 anni fa, c'era scritto: quello che riguarda tutti deve essere trattato da tutti. E lo stesso Pio XII parlò con forza del diritto. E allora dov'è la rivoluzione? Però di fatto è una novità straordinaria. Bene, allora vedremo che cosa viene fuori da lì, ma Paolo VI forse aveva quel profumo, quella paura del profumo del diavolo che si era insinuato nel concilio, o sbaglio? Ma guarda, il diavolo era prima del concilio, durante il concilio, dopo il concilio, è stato da tutte le parti. Il diavolo, ne parleremo. L'avversario, il nemico di Dio, una creatura che ha utilizzato la sua libertà opponendosi alla comunque creazione. faremo una puntata, ci racconterai di come è andata questa conferenza stampa. Grazie Gianni. Mario, andiamo avanti con le bolle. Ma dunque, sigletta. Allora, oggi parla al Senato e alla Camera chi? Anna Maria Cancellieri, il Cancellieri Gate. Come andrà a finire? Probabilmente, diciamo un po' a tarallucci e vino all'italiana, come vuoi, però il caso... Ma a tarallucci e vino non lo so, perché mi sembra che la Cancellieri non voglia tarallucci e vino. No. Voglia la considerazione precisa del suo comportamento. Sì, darà il contesto esatto. Ecco, oggi. Credo questo, che... Questo ma ci allo stesso attende. Tempo, credo che ieri, proprio qui da noi... Caselli è stato Caselli. Molto preciso sul merito. Preciso. E segnalo che uno dei più grandi hedge fund degli Stati Uniti, l'SIC, di Steve Cohen, che era considerato una sorta di mito, ha beccato una multa di 1.8 miliardi di dollari. La cosa interessante è che l'FBI, che ha investigato sul caso, ha detto basta venerare Gordon Gekko. L'avidità. Non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e la verità. Ascoltatemi bene. Non salverà solamente la Delta Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Beh, accidente. Un gigantesco Michael Douglas in Wall Street. New York potrebbe avere il primo sindaco democratico italiano, cioè De Blasio, a 41 punti di vantaggio. Voglio vedere se perde. Ce la fa. Forse ce la fa. E quali sono le caratteristiche di questo sindaco? Ma molto aperto, molto liberal. Ovviamente New York è New York, tu sai. New York, una specie New York. Di Renzi, no? È un Renzino. Un Renzone, perché mi sembra molto alto. Più poi di piace alla gente che piace. Va da Fazio? Sicuramente. Invitato da Fazio prossimamente. Lo metteranno prossimamente. Lì tra gli azzurri sfondati. No, sai cosa mi veniva in mente? Sì. Che in Vaticano, dalle cose che diceva il buon Gianni Gennari che stava andando in Vaticano, mi sa che ci ritroviamo Pagnoncelli e Floris in Vaticano con questa storia dei sondaggi. Aggiustano l'infallibilità da del Papa. Sembra che qui andiamo verso va bene, l'essere blasfemo. Esageriamo. Tu sai che io ho scritto un pezzo proprio che... perché so che hai scritto che mi permetto. Il cui titolo era Il diavolo sia con noi. Quindi immagina. Allora, l'India va su Marte. Questa è un'altra bella storia. Un'impresa per Nuova Delhi, ovviamente c'è la sfida spaziale con la Cina, e in realtà c'è sotto, come sempre, le armi, perché si parla di guerre spaziali sempre, quindi in questa competizione ci si comincia ad attrezzare per la guerra spaziale. Quella dello spionaggio è già in corso fra Russia e Cina, ci hanno spiegato l'altro giorno. È adesso così. guerra. BlackBerry sprofonda su se stessa. Questa è una storia molto interessante. Come una grande compagnia. Brutta notizia, io c'ho Ce l'hai? No, sì. Ce l'hai ancora, funziona, quindi stai a posto. No, però è una storia esemplare di come funziona la tecnologia, di come una grande azienda, da un momento all'altro, se non capisce dove va l'onda dell'innovazione, rischia di uscire dal mercato. Pensa, hanno cercato di venderla, non ci sono riusciti, ci sarà un'infusione di capitale di 1 miliardo adesso, il titolo ha perso il 12% solo ieri, la realtà è che sono disperati. E questo è... Io anche però, mi sembra una pessima notizia questa. Sai, nell'ultimo trimestre ha perso 965 milioni di dollari, tu capisci? Stiamo parlando di una cosa gigantesca. E quanti ne aveva guadagnati prima? Pochi, gli ultimi anni è stato un disastro, perché è stata superata... fondamentalmente dalla mela Apple. Vabbè, andiamo avanti, questa è tristissima. Bene, sentite questo brano. Twinkle, Ninna nanna, una cosa bella, perché un esperimento condotto su 10 future mamme dice che se tu fai ascoltare al nascituro questa musica, che è Twinkle Twinkle Little Star, insomma, poi gli infanti mesi dopo la riconoscono. Se la riconoscono. La riconoscono. Beh, è molto bella. Molto bella, ma chiedo scusa. Pietrangelo, tu i tuoi salamini? Il salamino in forma di maiale, laddove intendasi per maiale il siluro degli incursori, perché proprio in tema militare mi vorrei oggi esibire, perché c'è una certa rabbia. Il sindaco di Messina a Corinti si è presentato con la bandiera della pace. E nel suo diritto, lui è pacifista, è tale, può mettersi addosso la bandiera della pace. Però l'idea che alla commemorazione del 4 novembre, e quindi all'idea che ci sia il racconto e il ricordo di quello che è stata la fatica dei soldati, la fatica di farla bene o male questa Italia, la fatica anche di lasciarci la pelle, la fatica poi di raccontare che cosa significhi tutto ciò. Beh, lui può benissimo mettere la sua bandiera della pace, ma l'idea che alti ufficiali, l'idea che un prefetto, l'idea che le autorità, non potendolo allontanare, non si siano allontanati da lui, consegnandoci questa immagine blasfema del monumento dei caduti con questa pagliacciata, beh, ecco, mi fa rimpiangere i comunisti di una volta, quelli come Peppone, ma vorrei dire anche Armando Cossutta avrebbe ben volentieri preso a calci quella scena. È vero, ma bellissimo. Mi pare però che se ne sono andati, no, le autorità? Sono queste fotografie che... Tu, sembrava come che... sai, l'immagine dice tutto. Appunto, posso farvi una domanda, ma secondo voi come finisce la sfida tra Barbara e Adriano? Milan, Barbara che vuol cacciare Galliani. Vince Adriano. Sicuri? Adriano vince sempre. Silvio, non fa il regalo a Barbara? Io penso che vinca Adriano, ne parliamo subito dopo la pubblicità. Mix 24. Qui a Mix 24 per parlare adesso di televisione, di economia dei media, anzi, con il professor Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università Cattolica di Milano. Professor Doglio, buongiorno. Ecco, Twitter sta sancendo un'alleanza sempre più stretta, è quello che stiamo leggendo, con il grande schermo. Ecco, davvero Twitter può aiutare il mondo dei media tradizionali? Cioè, può arrivare un aiuto da lì? Ma cominciamo col dire che questa settimana iniziano le contrattazioni per la quotazione in borsa di Twitter, che punta a raccogliere $1 miliardi, il che darebbe una valutazione di 10 miliardi complessivi alla società, e non è male per un'operazione nata sull'idea dei 140 caratteri. Però quello che lei dice è vero, nell'ultimo anno, scusi, anche in vista di questa quotazione, Twitter ha lavorato moltissimo sull'integrazione con la televisione. L'idea è che invece che essere visto come un nemico che succhia via risorse pubblicitarie, promette di rendere più incisiva la pubblicità televisiva e magari anche aumentare il pubblico della televisione tradizionale. E quindi andiamo verso qualche forma di fusione? Beh, per il momento diffusione è un obiettivo molto lontano. Certamente c'è l'idea che non sono nemici, ma che si possono dare una mano, che Twitter e anche Facebook, che sta seguendo la stessa politica, possono in qualche modo salvare la televisione tradizionale da quella che altrimenti sembrerebbe essere un declino in Fausto. Ecco, però nel frattempo, in attesa di queste ipotesi di fusione, quanto Twitter e Facebook in realtà stanno già cambiando il linguaggio della televisione tradizionale, se lo stanno facendo? Beh, direi che è abbastanza evidente, anche se queste cose si verificano solo sul lungo periodo, nel senso che la sensazione che si ha analizzando i fenomeni dall'esterno è che ci sia ormai una prevalenza del twitteraggio, del chiacchiericcio, se vogliamo chiamarlo così, su i programmi medesimi. Cioè è come se il focus della comunicazione si stia spostando sullo scambio di commenti rispetto ai programmi invece che sui programmi medesimi. qui è implicito un rischio. Cioè, molto il programma forte e il commento. Sì, è un rischio molto forte, certo, per la televisione tradizionale, perché alla fine, siccome tutti quello che difendono è la, come dire, l'opportunità per gli inserzionisti pubblicitari di comprare spazi, il rischio è che se l'attenzione si sposta davvero così tanto sullo scambio di commenti, gli inserzionisti vorranno essere lì, vorranno essere collocati tra i commenti, non tanto sui programmi, e quindi si potrebbe avverare quello che è un presagio infausto che alcuni futurologi hanno messo in conto da tempo, e cioè che il vero secondo schermo in questa operazione diventa la televisione tradizionale. Sì, certo che se non c'è il programma su cui discutere, la discussione non si capisce su cosa si fa. Questo non c'è dubbio, ma lei sa che questo rischia, potrebbe voler dire che solo i grandi eventi sportivi diventano oggetto di commento. Perché il futuro della televisione, ahimè, credo che sarà quella che avevamo in qualche modo anticipato la settimana scorsa, cioè una TV che si fa personalizzando alla carta il proprio menù. E quindi a questo punto, se ognuno si guarda i programmi che vuole, quando vuole, dove vuole, come vuole, magari tutti insieme in un colpo solo, diventa difficile anche parlarne. Certo. Ecco, ma in famiglia quindi useremo i 140 caratteri per parlare, per uniformarci alla trasformazione del linguaggio che viene dalla fusione fra Twitter, Facebook e la televisione? Parliamo naturalmente di un futuro. Io ho questa sensazione, osservando certe famiglie, ce l'ho già. Mi pare che potrebbe già essere questa una realtà esistente, non a venire. Ecco, però qual è la differenza reale che c'è tra il chiacchiericcio televisivo e poi il dialogo nei social? Mi sembra che siamo veramente... Un altro grande punto interrogativo, perché in realtà è evidente che c'è una componente di contenuto serio, serioso, profondo nello scambio di informazione e di riflessioni che va avanti nei social, rispetto a questo che chiamiamo volutamente chiacchiericcio, perché tende a essere in qualche modo un modo per svalutarlo. La differenza c'è, però bisogna vedere sul medio e lungo periodo quale delle due modalità di linguaggio potrà prevalere. Io temo che prevarrà il chiacchiericcio. Ah sì, e quindi diciamo avremo questi grandi commenti sul nulla. Potrebbe essere, ma la cosa è che saranno comunque interrotti dalla pubblicità. Cioè una pubblicità che interrompe il nulla. Beh, mi sembra che questa colonna sonora di rumore che avremo nella nostra vita. Basterà il canto del muezzin a spezzare questa chiacchiera. Le appare pessimistico, lo so, però la sensazione è un po' quella. Ma poi certo, la tecnologia ci ha abituato a giganteschi cambiamenti in velocità. Comunque, per cui tutto potrebbe essere trasformato molto rapidamente. Do una testimonianza personale, che è anche quella di buttafuoco. Più stai su questi, su Twitter, Facebook, ci stiamo tutti, certo, lui eccetera, in realtà quando scrivi poi ti viene una voglia pazza di andare lungo, e infatti noi facciamo questi pezzi di 15.000, 16.000 battute, una liberazione, solo sul foglio. Le nostre paginate sul foglio, ci divertiamo da matti, è fantastico, ed è una reazione alla costrizione dei 140 caratteri anche, no? Certo. Che voglio dire, puoi fare anche dei buoni epigrammi, ma sai, quando ne fai due o tre poi alla fine E lì ci vuole Marziale, poi. Certo, no, voglio dire, non è che, quindi diciamo che c'è questo tipo di reazione, almeno in me, in Pietrangelo, in altri che amano e scrivere. E lei, Doglio? Ma come io funziona? Non amo i 140 caratteri perché anch'io sono quello che scrive lungo. Eccolo! Allora ci siamo, diciamo che abbiamo dato una bella legnata. Bene. Posso dare una notizia che è molto, molto, diciamo... Sì, intanto io volevo naturalmente ringraziare Sara Tardelli che ha curato la nostra notizia in 3D prima che scada il tempo. Dimmi. Molto interessante per tutti i discorsi che abbiamo fatto finora sull'economia, le svendite, privatizzazioni, l'Europa. Fabrizio Saccomanni ha detto: la BCE deve intervenire, l'euro è troppo forte. Ora, questa è una cosa significativa, cioè che il ministro dell'economia di un paese importante come l'Italia, che ha un tessuto di medie e piccole aziende orientate all'export, debba intervenire quasi pregando la BCE di cambiare linea su questo tipo di politica monetaria, questo dice molto. Certo, beh, a chi conviene tutto questo? All'Italia no, evidentemente, se il suo ministro del tesoro deve agire in questo senso. Come dire che Draghi, dopo la vittoria della Merkel, si è allineato? Non lo so, perché Draghi ha combattuto molto con i tedeschi, è stato anche bravo nei confronti dell'Italia quando ha acquistato moltissimi miliardi di titoli. Intanto io importanti. Naturalmente voglio, prima di finire, voglio ringraziare il professor Doglio, e l'appuntamento con l'economia dei media è per la settimana prossima. Grazie professore. Grazie mille. Dicevi? No, dicevo, quindi Draghi si è comportato come poteva, è difficile governare la BCE, no? È come un consiglio d'amministrazione in cui ci sono molti azionisti rissosi, tra cui i tedeschi che, avendosene solo una fetta, il 19% mi pare, in realtà si comportano un po' da padroni. Il futuro però è questo, cioè continua ad apprezzarsi in questa maniera l'euro, e cosa fanno le aziende italiane? Grande problema. C'è anche un discorso politico, prima hai citato il caso di Hollande, ma perché Hollande si ritrova in quella condizione? Perché adesso la gente parla chiaro, e in Francia dicono no euro, no Europa. Questo comincerà ad accadere anche in Italia, la racconteremo in un modo diverso. Guarino, qualche segnale.